Atti di Tommaso. Egli lo vende al commerciante Aban, affinché discenda e vada a convertire l'India. 1. In un momento in cui tutti gli apostoli a Simone Cefa e Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il cananeo, Giuda figlio di Giacomo si trovavano a Gerusalemme, si divisero i vari paesi tra di loro affinché ognuno predicasse nella regione che gli sarebbe toccata e nel luogo al quale il Signore l'avrebbe inviato. Sia nella sorte che nella divisione, l'India toccò all'apostolo Giuda a Tommaso. Ma egli non aveva voglia di andare, dicendo, «Non ho forza sufficiente. Sono debole. Inoltre io sono ebreo e come posso istruire gli indiani?» Mentre Giuda ragionava così, di notte, gli apparve in visione nostro Signore, e gli disse, «Non temere, Tommaso. È con te la mia grazia». Ma egli non ne fu per nulla persuaso e replicò, «Mandami dove vuoi tu, Signore nostro. È solo in India che io non voglio andare». 2. Giuda ragionava così allorché un mercante indiano di nome Aban, dall'India capitò nella regione meridionale. Lo aveva mandato il re Gudnafar affinché gli portasse un abile costruttore. Nostro Signore lo vide camminare per la strada, e gli domandò, «Vuoi tu acquistare un costruttore?» Quello gli rispose, «Sì». Nostro Signore gli disse, «Ho uno schiavo che è costruttore. Te lo vendo». Gli mostrò Tommaso, che si trovava alquanto distante, si accordò con lui sul prezzo di 20 pezzi d'argento, e scrisse l'atto di vendita, così, «Io, Gesù, figlio del falegname Giuseppe, del paese di Betlemme, in Giudea, certifico di aver venduto il mio schiavo Giuda a Tommaso Aban, commerciante del re Gudnafar». Terminato l'atto di vendita, Gesù prese Giuda e lo condusse al commerciante Aban. Appena lo vide, Aban gli domandò, «Costui è il tuo padrone?» Giuda gli rispose, «Sì, è il mio padrone». Allora il commerciante Aban gli disse, «Egli ti ha venduto a me completamente». Giuda se ne restò zitto. 3. Il mattino seguente, s'alzò, pregò, si rivolse al suo Signore, e gli disse, «Su, Signore nostro, sia come tu vuoi. Sia fatta la tua volontà». Se ne andò dal commerciante Aban senza prendere con sé null'altro all'infuori del suo prezzo, il Signore, infatti, glielo aveva dato. L'apostolo e il commerciante. Giuda se ne andò. Trovò il commerciante Aban mentre stava caricando la sua merce su di una nave, e prese ad aiutarlo a caricare la merce. Quando salirono sulla nave e si sedettero, il commerciante Aban domandò a Giuda, «Qual è il tuo mestiere? Che arte eserciti?» Giuda gli rispose, «Il mestiere di falegname e il mestiere di muratore». Il commerciante Aban gli domandò ancora, «Che cosa sai fare con il legno e che cosa sai fare con la pietra levigata?» Giuda gli rispose, «Con il legno ho imparato a fare aratri, giochi, pungoli, remi per barconi e alberi per navi. Con la pietra, pietre tombali, monumenti, templi e palazzi per re. Il commerciante Abban gli disse: e io ero proprio alla ricerca di un artigiano del genere. Il vento era favorevole, ed essi presero a navigare. La navigazione procedette tranquilla fino a quando giunsero alla città di Sandaruk. 4. Discesi a terra. Si dirigevano in città allorché udirono il suono di zampogne, di organi ad acqua e di molti canti. Giuda domandò: qual è il motivo di questa allegria in città? Gli risposero: gli dei hanno condotto anche te in questa città affinché tu sia allegro. Il re, infatti, ha una sola figlia e la sta dando in sposa a un uomo. È l'allegria della festa nuziale. Il re ha inviato araldi a proclamare l'evento, affinché tutti vengano alla festa, ricchi e poveri, schiavi e liberi, stranieri e cittadini. Chiunque non viene alla festa è sotto la minaccia dell'ira del re. Il commerciante Abban disse a Giuda: andiamo anche noi, affinché non si parli male di noi, soprattutto che siamo stranieri. Dopo aver preso alloggio in un albergo ed essersi riposati alquanto, andarono alla festa. Giuda si assise in mezzo agli altri, e tutti lo osservavano come uno straniero giunto da un'altra località. Il commerciante Abban, suo padrone, si era assiso in un altro luogo. 5. Mentre essi mangiavano e bevevano, Giuda non assaggiava assolutamente nulla. Quelli che gli stavano vicino gli domandavano: perché sei venuto qui se poi non mangi e non bevi? Giuda rispose: sono venuto qui per qualcosa di meglio che mangiare e bere, cioè per accontentare il re e compiere la sua volontà, e perché gli araldi proclamavano che colui che udiva e non veniva sarebbe stato punito. Allorché essi terminarono di mangiare e di bere, furono portati l'olio e la frutta secca. Ed essi si servirono. Alcuni si unsero la faccia, altri la barba ed altri altre parti. Giuda, lodando Dio, si segnò la fronte, inumidì, con un poco d'olio, le sue narici, ne pose un po' sulle orecchie e si fece il segno sul cuore. Intanto fu posta sul suo capo una ghirlanda di mirto ed egli prese in mano un ramo di canna. La suonatrice di flauto, che si trovava in mezzo alla compagnia, stava girando da tutti e, giunta da Giuda, si arrestò a suonare su di lui. La suonatrice di flauto era ebrea. 6. Mentre lei seguitava a restare a lungo presso di lui, Giuda non sollevò mai il suo sguardo, ma lo tenne sempre fisso a terra. Allora giunse un coppiere, alzò la mano e lo colpì con uno schiaffo. Giuda lo guardò e gli disse: «Il mio Dio ti perdonerà quest'atto nel mondo futuro, ma in questo mondo egli mostrerà le sue opere meravigliose sulla mano che mi ha colpito, la vedrò presto dilaniata da un cane». Giuda prese poi a cantare questo canto: la mia chiesa è figlia della luce, e suo lo splendore dei re. Grazioso e piacevole è il suo sguardo, elegante e adorno d'ogni cosa buona. I suoi abiti sono come i fiori, dal fragrante e gradevole profumo. Sul suo capo dimora il re, che ciba quanti dimorano sotto di lui. Sul di lei capo è posta la verità, dai suoi piedi traspare la gioia. Aperta è la sua bocca e grazioso il modo con cui recita ogni canto di lode. I 12 apostoli del Figlio e i 72 risuonano in lei. La sua lingua è la tendina che il sacerdote alza per entrare. Il suo collo è una lunga rampa di gradini edificato dal primo demurgo. Tutte e due le sue mani proclamano il luogo della vita, e le 10 dita hanno aperto la porta del cielo. Splendente è la sua camera nuziale, e piena di dolci e fluvidi salvezza. Al suo centro è pronto un incensiere, amore, fede e speranza lietano ogni cosa. Dentro c'è la verità in umiltà, la verità adorna le sue porte. 7. È circondata dai suoi paraninfi, tutti invitati da lei, le sue damigelle pure la precedono, cantando lodi. I vivi sono in attesa di lei, rivolti verso lo sposo che verrà, splenderanno della sua gloria, saranno con lui nel regno, che non tramonterà mai. Saranno nella gloria, che assembrerà tutti i giusti, saranno nella gioia riservata ad alcuni. Indosseranno ornamenti splendenti, saranno vestiti dalla gloria del loro Signore. Loderanno il Padre vivo, del quale ricevettero la maestosa luce, illuminati dallo splendore del loro Signore, dal quale ebbero un cibo, che non lascia alcun rifiuto, bevettero dalla vite che acquisce la sete di quanti ne bevono. Glorificarono il Padre, Signore di tutto, il suo unigenito Figlio e lodarono lo Spirito, che è la di lui sapienza. 8. Quando ebbe terminato questo canto, quelli che gli erano vicini lo guardavano e videro che cambiava aspetto. Non potevano però comprendere quanto aveva detto, perché egli aveva parlato in ebraico, lingua che essi non conoscevano. La suonatrice di flauto, essendo ebrea, comprendeva ogni cosa e lo guardava, ed anche quando lo lasciò per andare a suonare da altri, non cessava di guardare a lui, amandolo come suo connazionale, ai suoi occhi, egli era più bello di tutti i presenti. Terminato che ebbe di suonare, la suonatrice di flauto si sedette davanti a lui e non distolse più i suoi occhi da lui. Egli però non alzò mai gli occhi, né guardò alcuno, restando sempre con lo sguardo fisso a terra fino a quando si levò e partì dalla sala del banchetto. Nel mentre il coppiere era disceso alla fontana ad attingere acqua, ma capitò là un leone che lo assalì, e lo fece a pezzi. Vennero poi i cani a portarne via le membra ed un cane nero ne asportò la mano destra, che egli aveva alzato contro Giuda, e la portò in mezzo alla sala del banchetto. 9. A quella vista, tutti rimasero stupefatti e allorché si domandarono a chi di loro mancasse, Si scoprì che si trattava della mano del copiere che aveva colpito Giuda. Allora la suonatrice di flauto ruppe i suoi flauti, andò ai piedi dell'apostolo, si sedette e disse: Quest'uomo è Dio, un apostolo di Dio. Io, infatti, compresi quanto egli disse in ebraico al copiere e vidi che si avverò subito. Egli disse: Vedrò presto un cane dilaniare la mano che mi colpì. E voi avete visto come quel cane la dilaniava. Alcuni credettero alla suonatrice di flauto, e altri no. Quando il re udì questo fatto, venne e disse a Giuda: Vieni a pregare per mia figlia. È l'unica che ho e oggi la do in sposa. Egli non voleva andare con lui, poiché il Signore nostro non gli si era ancora manifestato in quel luogo. Ma il re lo portò con la forza alla camera nuziale. 10. Allora cominciò a pregare così: Signore nostro, compagno dei suoi servi, guida e maestro di quanti credono in lui, rifugio e riposo degli afflitti, speranza dei poveri, liberatore dei deboli, guaritore delle anime inferme, datore della vita all'universo e salvatore di tutte le creature. Tu sai le cose che avverranno, tu le compi per mezzo di noi, tu sveli i segreti nascosti, tu riveli le parole misteriose. Tu sei colui che pianta l'albero buono ed è per opera delle tue mani che avviene ogni azione. Tu sei nascosto in tutte le tue opere e ti manifesti nelle loro azioni. Gesù, perfetto figlio e grazia perfetta, tu sei divenuto il Messia e ti sei rivestito dell'umana natura. Tu sei la potenza, la sapienza, l'intelligenza e la volontà, il riposo del Padre tuo, nel quale tu sei velato nella gloria e nel quale tu sei manifestato nella tua attività creativa. Voi siete uno solo con due nomi. Tu ti sei manifestato come debole e quanti ti videro pensarono che tu fossi un uomo bisognoso di aiuto. Tu hai manifestato la gloria della tua divinità dando prova di longanimità verso la nostra umanità, allorché abbattesti il malvagio dalla sua potenza. Chiamasti con la tua voce i morti e divennero vivi, e a quelli che erano vivi e speravano in te facesti la promessa di una eredità nel tuo regno. Tu fosti l'ambasciatore inviato dalle altezze supreme, perché hai l'abilità di compiere la viva e perfetta volontà di colui che ti invia. Tu sei glorioso, Signore, nella tua potenza. Il tuo governo rinnovatore è in tutte le creature, in tutte le opere preparate dalla tua divinità, e nessuno può annullare il volere della tua maestà, né contrapporsi alla tua natura, al tuo essere. Tu discendesti nello Sheol, sei andato proprio fino in fondo. Ne hai aperto le porte, hai liberato i suoi prigionieri e, per opera della natura della tua divinità, hai preparato la strada che conduce in alto. A te, Signore, mi rivolgo in favore di questi giovani affinché tu faccia loro quanto sai che sarà loro benefico. Pose poi le mani su di essi e disse: Il Signore nostro sia con voi. E, lasciatili, se ne andò via. 11. All'ordine del re, i paraninfi uscirono dalla camera nuziale. E quando tutti furono fuori e le porte della camera nuziale chiuse, lo sposo sollevò il velo per addurre a sé la sposa. Vide allora nostro Signore, nelle sembianze di Giuda, che se ne stava a parlare con la sposa. Lo sposo gli domandò: «Oh, ma non sei tu uscito per primo? Com'è che sei ancora qui?» Nostro Signore gli rispose: «Io non sono Giuda, sono il fratello di Giuda». Nostro Signore si sedette poi sul letto, fece sedere i giovani su delle sedie e prese a dire loro: 12. Ricordatevi, figli miei, quello che vi disse mio fratello: conoscete colui al quale egli vi ha affidato e sappiate che non appena vi asterrete da questo sordido rapporto, diverrete templi puri. Sarete preservati dalle sollecitudini palesi e dalle invisibili, e da ogni fastidiosa cura di bambini il cui fine non è che amara tristezza. Se avrete dei figli, per amor loro diverrete ladri, avari, aguzzini di orfani e predoni di vedove e per il loro agire malvagio sarete orribilmente torturati». Poiché la maggioranza dei fanciulli sono causa di molti affanni, o li prende il re, o sono preda di un demone o sono ghermiti dalla paralisi, e se godono buona salute, cadranno malati o a causa di adulterio o di furto o di fornicazione o di omicidio o di vanagloria. E a causa di queste sciagure voi subirete per loro una tortura. Lasciatevi convincere da me, mantenendovi puri per Dio e avrete dei fanciulli vivi che non saranno lesi o toccati da alcuno di questi malanni. Non avrete né cure, né preoccupazioni, né tristezze e vivrete nella speranza della visione della vera festa nuziale ove sarete tra coloro che lodano Dio e annoverati tra coloro che entrano nella camera nuziale. 13. I giovani furono convinti da nostro Signore, si diedero a Lui, si astennero dal sordido piacere e passarono la notte ai loro posti. Nostro Signore se n'era partito, dicendo loro: «Sia con voi la grazia del Signore vostro». Al mattino il re fece imbandire una tavola molto presto, l'introdusse davanti allo sposo e alla sposa e li trovò seduti l'uno di fronte all'altro. La faccia della sposa era scoperta e lei se ne stava seduta, mentre lo sposo era pieno di gioia. La madre della sposa le domandò: «Perché te ne stai seduta così senza alcuna vergogna, quasi che fossi sposata da lungo tempo, da più giorni?» Ed il padre di lei aggiunse: «È a causa del tuo grande amore per tuo marito che tu non ti veli nemmeno?» 14. La sposa rispose: «In verità, madre mia, sono innamorata e prego il mio Signore di poter continuare nell'amore che ho sperimentato questa notte ed essere attratta dallo sposo incorruttibile che questa notte mi si è rivelato. Io non sono velata perché è stato allontanato da me il velo della corruzione. Non sento alcuna vergogna perché da me sono state rimosse le opere della vergogna. Non sono pentita perché dimora in me la penitenza restauratrice della vita. Sono piena di gioia e allegra perché in questo giorno di gioia transitoria non mi sono lasciata prendere dall'agitazione. Ho disprezzato quest'opera di corruzione e l'allegria di un banchetto nuziale passeggero perché sono stata invitata alla vera festa nuziale. Non ho avuto rapporto con un marito che finisce in amaro pentimento, perché mi sono congiunta con il vero marito. Quindici. E seguitava a dire molte altre cose di questo genere, allorché lo sposo l'interruppe, dicendo: «Ti lodo, Dio nuovo, che per opera di uno straniero sei venuto qui. Ti glorifico, Dio, che sei stato predicato da un ebreo, che mi hai liberato dall'infermità che dimorava in me per sempre, che ti sei rivelato a noi e hai intuito il mio stato, che mi hai salvato dal cadere e mi hai condotto a uno stato migliore, che mi hai allontanato da queste cose transitorie e mi hai reso degno di quelle perenni, che ti sei abbassato fino alla mia piccolezza per potermi condurre alla tua grandezza, che non hai trattenuto da me che ero perduto, la tua grazia, bensì mi hai insegnato a cercare me stesso, e ad allontanare da me le cose che non sono mie, che mi hai ricercato quando io ancora non ti conoscevo, che sei venuto a me quando io ancora non ti scorgevo. Ora che io lo scorgo, non sono capace di parlare di ciò che non conosco. Di lui non posso permettermi di dire alcunché con audacia, giacché è a motivo del tuo amore che io sono audace. 16. Allorché il re udì queste cose dallo sposo e dalla sposa si stracciò le vesti e disse a coloro che erano con lui: «Andate presto per tutta la città, ricercate e portatemi quel mago che io stesso, con le mie mani, ho introdotto in casa mia domandandogli di pregare per la mia infelice figlia». All'uomo che, trovatolo, me lo porterà darò tutto quello che vuole. Quelli uscirono, girarono alla sua ricerca, ma non lo trovarono perché era partito. Andarono all'albergo ove egli si era intrattenuto, trovarono la suonatrice di flauto che sedeva in lacrime, perché egli non l'aveva presa con sé. Quando le dissero ciò che era avvenuto, lei se ne rallegrò e disse: «Qui io ho trovato riposo». E, alzatasi, andò dai giovani e dimorò con essi per lungo tempo. Essi ammaestrarono anche il re e riunirono un buon numero di fratelli fino a quando si ebbe notizia dell'apostolo nel regno dell'India. Andarono poi da lui e rimasero con lui. 2 atto. 17. Quando Giuda entrò nel regno dell'India con il mercante Aban, questi andò a riverire Gudnafar, re dell'India, e gli parlò dell'artigiano che gli aveva condotto. Il re fu molto contento e ordinò che Giuda fosse condotto alla sua presenza. Il re gli domandò: «Quale mestiere sai esercitare?» Giuda rispose: «Sono falegname, servo di un falegname e architetto. Gli domandò ancora: che cosa sai fare? Giuda gli rispose: con il legno so fare gioghi, aratri, pungoli, remi per barche, barconi e alberi per navi, con la pietra levigata, pietre tombali, monumenti e palazzi per re. Il re rispose a Giuda: ho proprio bisogno di un artigiano così. E aggiunse: vuoi costruirmi un palazzo? Giuda gli rispose: lo costruirò e lo rifinirò già che sono venuto per lavorare di muratura e di falegnameria. 18. Il re lo prese, andò fuori della porta della città, parlando con lui della costruzione del palazzo e di come dovevano essere gettate le fondamenta. Giunto al posto in cui il re desiderava che gli fosse costruito il palazzo, disse a Giuda: è qui che desidero costruirmi un palazzo. Giuda gli disse: bene, questo è un luogo adatto. Si trattava di un prato e nei pressi c'era una quantità di acqua. Il re gli ingiunse: incomincia a costruire qui. Giuda gli rispose: ora, proprio in questo tempo, non posso costruire. Il re gli domandò: in che tempo potrai costruirlo? Giuda gli rispose: lo inizierò nel mese di Tishri e lo finirò nel mese di Nisan. Il re replicò: tutti gli edifici sono costruiti in estate e tu vuoi costruire in inverno. Giuda gli rispose: solo così è possibile costruire il palazzo. Il re concluse: bene, fanne un tracciato affinché lo possa vedere, già che io ritornerò qui dopo una lunga assenza. Giuda prese una canna e cominciò a misurare, dispose le porte verso oriente, per la luce, le finestre verso occidente, per l'aria, le cucine a meridione e i canali d'acqua per il servizio a settentrione. Il re gli disse: tu sei veramente un buon artigiano, degno di servire un re. Gli lasciò una grande somma di denaro e se ne andò. 19. Di tempo in tempo gli mandava argento e oro, ma Giuda se ne andava per villaggi e città sovvenendo ai poveri, sollevando gli afflitti, dicendo: ciò che è del re sarà dato al re, e molti avranno riposo. Dopo molto tempo, il re mandò a Giuda dei messaggeri, con questo messaggio: mandami a dire quello che hai fatto e fammi sapere che cosa ti devo inviare. Giuda gli rispose: il palazzo è costruito, manca, però, il soffitto. Il re allora gli inviò argento e oro, mandandogli a dire: metti il soffitto al palazzo. L'apostolo glorificava nostro Signore dicendo: il Signore vostro vi dia riposo. Solo a Lui appartiene la gloria. Egli è, infatti, il nutritore degli orfani, il sostenitore delle vedove, l'aiuto di tutti gli afflitti. 20. Giudizio sul palazzo. Allorché il re giunse in città, interrogava ognuno dei suoi amici a proposito del palazzo costruitogli da Giuda, ma essi rispondevano: non ha costruito alcun palazzo, né ha compiuto alcun'altra cosa, bensì è andato in giro per città e villaggi sovvenendo ai poveri e ammaestrandoli sul nuovo Dio, curando anche gli infermi, scacciando i demoni e facendo molte altre cose, Pensiamo che si tratti di un mago. Tuttavia la sua misericordia e le guarigioni che compie senza chiedere ricompensa, il suo ascetismo e la sua modestia ci inducono a pensare che sia piuttosto o un saggio o un apostolo del vero Dio. Egli, infatti, digiuna molto e prega molto, mangia pane e sale, beve acqua. Porta un solo vestito, per se stesso non prende nulla da alcuno e dagli altri tutto quello che ha. Udito ciò, il re si colpì il volto con le sue mani e scosse a lungo la testa. 21. Mandò poi a chiamare Giuda e il commerciante che glielo aveva portato, e domandò: «Mi hai costruito il palazzo?» Giuda rispose: «Sì, il palazzo te l'ho costruito». Il re gli domandò: «Quando possiamo andare a vederlo?» Giuda rispose: «Tu non lo puoi vedere ora, ma solo quando sarai partito da questo mondo». Allora, l'ira del re lo rese furioso e ordinò che sia Tommaso sia il commerciante che glielo aveva portato fossero legati e condotti in prigione fino a quando avrebbe potuto interrogarlo per sapere a chi erano stati dati i suoi denari e metterlo poi a morte. Ma Giuda se ne andò contento e disse al commerciante: «Non temere. Credi soltanto e sarai liberato da questo mondo e riceverai la vita perenne nel mondo che è da venire». Dopo aver riflettuto sul genere di morte da infliggere a Giuda e al commerciante, prese la risoluzione che fosse bruciato dopo essere stato prima scorticato con il commerciante suo compagno. In quella stessa notte, il fratello del re, di nome Gad, a causa dell'angoscia e dell'inganno ai quali il re era stato sottoposto, mandò a chiamare il re e gli disse: «Fratello mio, ti affido la mia casa e i miei figli perché io sono afflitto e sto morendo a causa dell'inganno al quale sei stato sottoposto. Se tu non punisci quel mago, non darai pace all'anima mia nello Sheol». Il re gli rispose: «Ho meditato tutta la notte come ucciderlo e ho deciso di bruciarlo nel fuoco dopo averlo prima fatto scorticare». Allora il fratello del re disse: «Se c'è ancora qualcosa di peggiore di questo, fallo. Io intanto ti affido la mia casa e i miei figli». 22. Mentre diceva queste cose, la sua anima lo abbandonò. Il re rimase rattristato per il fratello, che amava molto, e ordinò che fosse sepolto in una splendida tomba. Ma allorché l'anima di Gad, fratello del re, lo abbandonò, fu presa dagli angeli e portata in cielo. Le mostrarono successivamente i vari posti, domandandogli in quale di essi desiderava essere. Giunti al palazzo edificato da Giuda per il re, suo fratello, appena lo vide, disse agli angeli: «Miei signori, vi chiedo di abitare in una delle camere inferiori di questo palazzo». Gli angeli gli risposero: «Non ti è permesso abitare in questo palazzo». Egli domandò loro: «Perché?» Gli risposero: «Questo palazzo è quello costruito dal cristiano per tuo fratello». Disse loro: «Lasciatemi, vi prego, signori, affinché possa andare da mio fratello a comprare da lui questo palazzo. Non avendolo visto, egli me lo venderà. 23. Allora gli angeli lasciarono andare l'anima di Gad. Mentre veniva vestito, l'anima rientrò in lui ed egli disse ai presenti: chiamatemi mio fratello perché ho da fargli una domanda. Fu portata al re la notizia: tuo fratello è ritornato in vita. Il re s'alzò dal suo posto e andò, con molta gente, nella casa di suo fratello, e quando fu a fianco al letto del fratello era così attonito che non gli riusciva di articolare parola. Il fratello gli disse: so, fratello, che se qualcuno ti avesse chiesto la metà del tuo regno, tu me l'avresti data. Ora ti chiedo di volermi vendere ciò a cui tu hai faticato. Il re gli domandò: dimmi che cosa ti debbo vendere. Gli rispose: assicurami con giuramento. Dopo che il re l'assicurò con giuramento che gli avrebbe dato qualsiasi cosa avesse chiesto, egli disse: vendimi il palazzo che tu hai in cielo. Il re domandò: e chi mi ha dato un palazzo in cielo? Il fratello gli rispose: è quello che il cristiano ha costruito per te. 24. Il re gli rispose: questo non te lo posso vendere. Bensì io prego e supplico Dio di potervi entrare, di riceverlo e di essere reputato degno di dimorare tra i suoi abitanti. Quanto a te, se veramente desideri comprarti un palazzo, questo architetto te ne può costruire un altro migliore del mio. Mandò a chiamare Giuda, e il commerciante che era stato imprigionato con lui, e gli disse: come un uomo che supplica un ministro di Dio, io ti supplico di pregare per me e supplicare in mio favore il Dio che tu veneri affinché mi perdoni quanto ti ho fatto, mi renda degno di entrare nel palazzo che tu hai costruito per me e io possa diventare un fedele del Dio che tu predichi. Si presentò pure suo fratello, si prostrò ai piedi dell'apostolo e gli disse: anch'io ti supplico di intercedere per me davanti al tuo Dio affinché io divenga degno di essere annoverato tra i suoi fedeli e di ricevere ciò che egli mi ha mostrato per opera degli angeli. 25. Il re e suo fratello. Giuda disse: ti lodo, Signore nostro Gesù Cristo, unico Dio della verità all'infuori del quale non ve n'è altro. Tu conosci tutto ciò che l'uomo ignora, tu la cui misericordia sovrasta l'uomo da te voluto e creato, che non dimentichi, sebbene ti abbia dimenticato. Accogli il re e suo fratello, uniscili al tuo gregge, ungili, purificali dalle impurità, custodiscili dai lupi, falli pascolare sui tuoi prati e falli bere alla tua fonte la cui acqua non è mai torbida e il cui flusso non viene mai meno. Ecco che essi ti supplicano e scongiurano, con il desiderio di diventare tuoi servi, di essere perseguitati dal tuo nemico e di essere odiati per amor tuo. Concedi che, in te, essi siano coraggiosi, siano rafforzati con i tuoi gloriosi misteri e partecipino ai doni dei tuoi doni. 26. Essi, manifestando la loro gioia con inni sacri, aderirono all'Apostolo e non si staccavano da lui. Ogni bisognoso era aiutato e sollevato, e chiesero di poter ricevere il segno, dicendogli: «Le nostre anime sono rivolte a Dio per ricevere il sigillo, giacché abbiamo udito che tutte le pecore del Dio che tu predichi gli sono note per mezzo del sigillo». Giuda rispose: «Anch'io mi rallegro e vi chiedo di prendere parte all'Eucaristia e alla benedizione del Cristo che io predico». Il re ordinò che per 7 giorni il bagno restasse chiuso e che nessuno vi andasse a prendere il bagno. Terminati i 7 giorni, nell'8º giorno i 3 entrarono di notte nel bagno affinché Giuda li potesse battezzare. Nel bagno erano state accese molte lampade. 27. Quando entrarono nella sala del bagno, Giuda si presentò davanti a loro e il Signore apparve, e disse: «La pace sia con voi, fratelli». Essi udirono soltanto la voce, ma non videro alcuna figura giacché non erano ancora stati battezzati. Giuda si reò sul margine della vasca e versò dell'olio sulla loro testa, dicendo: «Vieni, santo nome di Cristo, vieni, potenza della grazia che dimori in alto. Vieni, grazia perfetta. Vieni, dono sublime. Vieni, comunicatrice di benedizione. Vieni, rivelatrice dei misteri nascosti. Vieni, madre delle 7 case, il cui riposo è nell'8ª casa. Vieni, messaggera di riconciliazione, e mettiti in comunione con le menti di questi giovani. Vieni, spirito di santità, e purifica loro i reni e il cuore». E li battezzò nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo di santità. Quando salirono dall'acqua apparve loro un giovane che reggeva una candela accesa, al cui fulgore impallidì la luce delle lampade, e divenne invisibile loro non appena usciti. L'Apostolo disse: «Non potevamo sopportarne il fulgore essendo troppo forte per i nostri occhi». Al crepuscolo, nel fare del giorno, egli spezzò l'Eucaristia e li rese partecipi della mensa di Cristo, con loro gioia e letizia. Allorché si aggiunsero loro molti altri venuti a cercare il rifugio di Cristo, Giuda non desistette dalla predicazione e diceva loro: 28. Uomini, donne, bambini, giovani e fanciulle, astenetevi dalla fornicazione, dall'avarizia e dal servizio dei demoni, poiché sotto questi 3 capi si riassume ogni iniquità. La fornicazione acceca l'intelletto, e ottenebra gli occhi dell'anima, confonde i passi del corpo, cambia la sua complessione e lo debilita. L'avarizia agita l'anima in mezzo al corpo, sicché prende quanto non le appartiene e teme la vergogna allorché restituisce le cose ai loro proprietari. Il servizio del ventre pone l'anima nell'affanno e nella tristezza per il timore di cadere nell'indigenza, avida di cose che sono lungi da lei. Ma se ne sarete liberati, diverrete senza affanno e senza dolore e vi si applicherà il detto: non preoccupatevi per il domani, giacché il domani avrà la sua preoccupazione. Ricordate l'altra espressione scritta per voi. Guardate i corvi e osservate gli uccelli del cielo che non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, e tuttavia Dio li ciba. Tanto più egli avrà cura di voi che avete poca fede. Aspettate l'arrivo di Gesù, sperate in lui, credete nel suo nome, poiché egli è il giudice dei vivi e dei morti, e al suo arrivo ricompenserà ognuno secondo le sue opere. Nessuno avrà la scusa per poter dire: io non lo sapevo. I suoi messaggeri, in tutte e quattro le parti del mondo, annunziano: pentitevi, credete alla nuova predicazione e accogliete il soave giogo e il peso leggero per vivere e non morire. Acquistate queste cose per non perire. Uscite dalle tenebre e vi accoglierà la luce. Venite verso il bene e accogliete la grazia per voi, e imprimete la croce nelle vostre anime. 29. Dopo che l'apostolo ebbe proferito queste parole, alcuni di essi gli dissero: per il creditore è tempo d'essere pagato. Egli rispose loro: il creditore cerca sempre d'avere di più, ma diamogli quanto gli è dovuto. Recitò una benedizione sul pane e sulle olive, e li distribuì a loro. Ne mangiò anche egli, perché albeggiava la domenica. Nella notte, mentre l'apostolo era addormentato, venne nostro Signore, si pose alla sua testa e gli disse: Tommaso, alzati e, dopo la liturgia, parti e va lungo la strada orientale per circa 3 chilometri, e io ti mostrerò la mia gloria. A motivo, infatti, di quanto tu ti accingi a fare, molti verranno al mio rifugio e vivranno, e tu riproverai il potere e la natura del nemico. Svegliatosi dal sonno, disse ai fratelli che gli erano vicini: miei figli, il Signore oggi compirà quello che vuole. Preghiamolo e supplichiamolo affinché da parte nostra non gli si frapponga alcun impedimento, bensì, come sempre quando egli vuole mostrare la sua potenza, così anche ora sia fatta la sua volontà. Dopo aver parlato così, pose la sua mano su di loro, spezzò l'Eucaristia e ne diede a tutti, dicendo: che questa Eucaristia sia per voi grazia e misericordia, non giudizio e vendetta. Essi risposero: Amen. Atto terzo. 30. L'apostolo uscì per andare dove il Signore gli aveva ordinato. Dopo aver camminato circa 3 chilometri, si scostò un poco dalla strada, vide che per terra giaceva il cadavere di un giovane di bell'aspetto ed esclamò: mi hai dunque condotto qui, nostro Signore, per questa prova? Sia come tu vuoi. E prese a pregare, dicendo: Signore nostro, Signore dei morti e dei vivi, dei vivi che stanno in piedi e dei morti che giacciono, Signore, Signore delle anime dimoranti nei corpi, e Padre di tutte le anime che sono uscite dai corpi, vieni, Signore, in questo momento, per amore di quella polvere formata dalle tue sacre mani, dal cielo guarda giù a me che ti invoco e mostra la tua gloria in quest'uomo che giace qui. E proseguì. Questo fatto non ebbe luogo senza l'istigazione del nemico, che compie queste cose. Ma questo nemico che compie tali cose non avrebbe osato agire così con uno che gli era estraneo, ma solo con uno che gli era soggetto. 31. Quando egli terminò di pronunciare queste parole, da una fessura venne fuori un serpente nero, che scuotendo fortemente la testa e battendo al suolo la coda, disse ad alta voce all'apostolo: «Ti narrerò per quale motivo io ho ucciso questo giovane. In questo paese, qui sopra davanti a te, c'era una bella donna. Mi passò vicino, io la vidi, ne rimasi innamorato. Lei andai dietro e vidi questo giovane che la stava baciando. Costui dormì anche con lei e fece con lei altre cose sconvenienti. Benché sarebbe facile per me, a te non oso manifestarle, sapendo che l'abisso di Cristo distruggerà la nostra natura. Per non spaventare lei, io non l'uccisi in quel momento, ma lo tenni d'occhio e quando, alla sera, mi passò vicino, lo colpii e l'uccisi, soprattutto perché aveva osato compiere una tale azione di domenica. Giuda gli domandò: «Di quale stirpe sei tu?» 32. Il serpente rispose: «Io sono un rettile figlio di un rettile, danneggiatore figlio di un danneggiatore. Sono figlio di colui al quale è stato dato il potere su tutte le creature, che egli tormenta. Sono figlio di colui che, per coloro che gli obbediscono, si fece simile a Dio affinché compiano la sua volontà. Sono il figlio di colui che governa ogni cosa creata sotto i cieli. Sono il figlio di colui che è al di là dell'oceano, e la cui bocca è chiusa. Sono parente di colui che parlò con Eva e, per mezzo di lei, fece sì che Adamo trasgredisse il comando di Dio. Sono colui che incitò Caino ad assassinare suo fratello. Per causa mia, la terra fu maledetta e su di essa crebbero spine, ed è per questo che io fui creato. Sono colui che osò buttare giù i giusti dalla loro altezza e li corruppe con la brama delle donne. Generarono uomini corpulenti nei quali io compii la mia volontà. Sono colui che irrigidì il cuore del faraone affinché uccidesse i figli di Israele assoggettandoli a dura bassa schiavitù. Sono colui che traviò il popolo nel deserto, allorché li persuasi a modellarsi un vitello. Sono colui che eccitò Caifa ed Erode con calunnie contro il giudice giusto. Sono colui che, dopo avermelo assoggettato, indussi Giuda a ricevere il prezzo per consegnare Cristo alla morte. Sono colui al quale fu dato il potere su questo mondo, e il figlio di Maria mi afferrò con la forza e mi strappò ciò che era suo. Sono parente di colui che verrà dall'Oriente, e al quale è stata data la potenza. 33. Il serpente disse queste cose perché Giuda aveva domandato al Signore che gli desse la parola e che fosse costretto a parlare della sua natura. Una moltitudine udiva tutte queste cose e quando ebbe finito di parlare, nel vedere e nell'udire tutte queste meraviglie, tutti i presenti furono pieni di timore e di fede, e presero a gridare forte e all'unisono, «Uno è il Dio, quello di quest'uomo che ci ha istruito sul suo Dio, la cui parola ha ordinato a questa terribile bestia di manifestare la sua natura». Allora essi presero a supplicarlo affinché come con la sua parola gli aveva ordinato di parlare come uomo così con la sua parola volesse ucciderlo. Giuda, fatto loro un cenno con la mano, alzò la sua voce e disse, «Tu sei audace, ma la tua natura è ormai svelata e tu sarai ucciso». La tua impudenza non doveva giungere a tanto da portarti a narrare le cose compiute da quelli che ti erano soggetti. Tu non hai temuto che giungesse la tua fine. In nome di nostro Signore Gesù che fino adesso ha combattuto contro la tua natura fino in fondo per gli esseri umani che sono suoi, io ti ordino di succhiare il veleno che tu hai sprizzato contro questo giovane. Il mio Dio, infatti, mi ha mandato a ucciderti e a risuscitare lui davanti a questa moltitudine affinché possano tutti credere in lui. Egli è il vero Dio e non ce n'è alcun altro. Il serpente rispose, «Come tu hai detto, non è ancora giunto il momento della nostra distruzione. Perché, dunque, mi vuoi obbligare a riprendere quanto ho inoculato in questo giovane? Giacché anche quando mio padre succhierà e riprenderà quanto è inoculato nel creato, sarà la sua distruzione». L'apostolo gli comandò, «Manifesta, allora, la natura del padre». Il serpente si accostò, pose la sua bocca sulla ferita del giovane e prese a succhiarne il veleno. Poco alla volta, a mano che il veleno era espulso, il giovane, che aveva il colore della porpora, acquistava un colorito bianco mentre il serpente si gonfiava. Allorché ebbe finito di estrarre tutto il veleno dal giovane, saltò su e corse ai piedi dell'apostolo, si prostrò e lo riverì. Poi, in conformità alla parola di Giuda, il serpente scoppiò, e là nel luogo ove cadde il veleno del serpente si fece una grande voragine. Giuda ordinò al re e a suo fratello di riempire la voragine e gettarvi le fondamenta per edificare delle case per l'alloggio di stranieri. 34. Il giovane e Tommaso. Il giovane glorificava Dio in grazia del quale aveva riacquistato la vita ed era stato liberato da tutte le sue azioni precedenti per opera dell'apostolo Giuda. Sentendo il rimorso della sua coscienza, supplicò pure l'apostolo perché l'aiutasse nella preghiera al Signore. Disse, «Gloria a te, Dio misericordioso, grande e glorioso, che hai fatto e organizzato tutte le cose create. A tutte le creature che hai creato, tu hai posto un limite e una misura, E hai determinato i cambiamenti stagionali che giovano al benessere delle loro nature. Tu sei colui che ha fatto l'uomo. Conforme al volere della tua divinità, l'hai plasmato con le tue mani affinché dominasse sugli altri? Per lui tu hai creato un'altra creatura perché lotti contro di essa in forza della libera volontà di cui tu l'hai dotato. Ma la libera natura dell'uomo si sviò, ed egli divenne suddito della sua compagna la quale si trasformò in suo nemico, essendosi accorto che egli aveva dimenticato la sua libera volontà. Il nemico si rallegrò di avere trovato il modo di infiltrarsi nel suo compagno. E ritenne di essere diventato il padrone di tutti gli schiavi. Ma tu, misericordioso, per mezzo della tua grazia, hai versato su di noi la tua bontà, mandando al genere umano la tua parola, l'ordinatrice di tutte le cose create, in virtù del tuo glorioso Figlio. Con la libertà che tu gli hai dato, aiutato dalla tua bontà, egli venne e ci trovò in quelle opere che il genere umano compie fin dal suo primo giorno. Tu non hai tenuto conto dei nostri peccati, bensì mi hai portato alla vita per mezzo della tua bontà, mi hai mostrato la mia trascuratezza e hai infuso in me l'amore celeste. Hai aperto la mia bocca, che era chiusa, affinché io parlassi di chi mi aveva assoggettato e dell'abbondanza della tua grazia, che non sa dire contro di me per quanto sto dicendo su di lei, e del suo amore, che io parlo. Giuda gli tese la mano, lo rialzò, l'abbracciò e gli disse: la grazia del Signore sia con te e con tutti quelli che credono in Lui. Il giovane proseguì: gloria a te, Dio, che non hai risparmiato il tuo amore verso di me, che ero perduto, e mi hai mostrato come ricercare la mia anima, e a tuo proposito mi ha fatto sapere che tu sei il suo apostolo. A te ha detto: per mezzo tuo ho da mostrare tante cose e tu hai da compiere molte opere in grazia di me per le quali riceverai giusta ricompensa. Tu dovrai la vita a molti i quali andranno in alto, nella luce dei figli di Dio. Dunque, dai vita a questo giovane, abbattuto dal nemico giacché tu contempli sempre il tuo Signore. Sì. Mio Signore, Apostolo di Dio, tu hai fatto bene a venire qui, tu hai tratto molti a lui ed egli non ti abbandonerà. Io non ho né affanno né pena perché, per opera tua, la sua grazia è discesa su di me perché il suo dono è effuso abbondantemente sulla mia debolezza. Sono stato liberato da affanni malvagi e da opere di perdizione, sono sfuggito a colui che mi spronava e incitava a compiere quelle azioni che tu trovasti in me. Tu hai compreso colui che mi suggeriva il contrario. E io ho distrutto colui che per mezzo dell'oscurità, suo apparente, mi fece incespicare a causa delle sue opere. Ho trovato la luce, il Signore del giorno, che io ancora non avevo visto, ora l'ho visto. Ho distrutto colui che oscurava e ottenebrava tutti quanti lo seguivano e gli obbedivano, tanto da non vedere quello che stavano facendo, da non vergognarsi delle loro azioni di modo che desistano e pongano fine al loro agire. Ho trovato colui il cui agire fa sì che non si pentano mai coloro che compiono la sua volontà. Mi sono liberato da colui che è sostenuto dalla frode, preceduto da un velo e seguito dalla vergogna, da colui che è audace e impudente. Ho trovato colui che elimina i cattivi, il Signore della pace, colui che conferma nella verità, colui che allontana il nemico da coloro che si sono pentiti e tornati a lui, colui che guarisce i dolori e distrugge chi li sconvolge. Ti supplico, Apostolo di Dio, semina in me la tua parola di vita di modo che io possa nuovamente udire la voce di colui che mi affidò a te e ti disse: questo è uno di coloro che per mezzo tuo vivranno. D'ora in poi egli resterà con te. 35. Giuda gli rispose: se tu sarai liberato da queste cose che hai imparato, come hai detto, dall'artefice del male, e ascolterai colui che nel fervore del tuo amore tu stai ora cercando, tu lo vedrai e sarai per sempre con lui, riposerai con lui nella sua grazia e sarai con lui nella sua gioia. Ma se tu sarai negligente verso di lui, se ritornerai alle tue prime azioni e disprezzerai colui che ora desideri ardentemente a motivo della sua bellezza e dello splendore del suo volto, non solo tu sarai privato di questa vita che hai visto, ma perderai anche quella alla quale tu aneli. 36. Giuda andò poi in città, prese la mano del giovane e gli disse: le cose che tu hai visto sono soltanto una parte delle molte che Dio ha in suo potere. Egli non ci ha mandato promesse riguardanti queste cose visibili, bensì ci ha promesso cose migliori. Fino a quando siamo in questo mondo non siamo capaci di parlare di ciò che riceveranno quelli che credono in Dio. E, infatti, se diciamo che Egli ci dà la luce, menzioniamo qualcosa che abbiamo visto? Se diciamo che ci dà le ricchezze, menzioniamo qualcosa che è in questo mondo? Se parliamo di abiti lussuosi, menzioniamo qualcosa che è indossato dai nobili? Se parliamo di cibi raffinati, menzioniamo qualcosa dal quale siamo stati posti in guardia? Se parliamo di questo temporaneo riposo, sappiamo che per esso è fissata una sanzione. Noi dunque parliamo di Dio e di nostro Signore Gesù, degli angeli e degli spiriti custodi, dei santi e del mondo nuovo, del cibo incorruttibile, dell'albero della vita e della bevanda della vita. Di ciò che occhio non vide, orecchio non udì né mai entrò nel cuore dell'uomo. Di ciò che Dio ha preparato da lungo tempo per coloro che lo amano. Parliamo di questo e predichiamo questo. Perciò credi in Lui, figlio mio, affinché tu possa vivere, affidati a Lui affinché tu non muoia. Egli, infatti, ne accoglie doni qualora tu glieli offrissi. Ne si compiace di sacrifici qualora tu glieli presentassi. Volgiti a lui, ed egli non ti trascurerà, ritorna a lui, ed egli non ti abbandonerà. La sua bellezza ti spronerà ad amarlo ed egli non permetterà che tu te ne vada lungi da lui. 37. L'apostolo e la moltitudine. Mentre Giuda diceva al giovane queste cose, si aggiunse a loro una moltitudine. L'apostolo sollevò gli occhi e vide che per poterlo vedere si alzavano l'uno sull'altro e andavano su luoghi elevati. Rivolto a loro, l'apostolo disse: «Uomini che siete venuti all'assemblea di Cristo, uomini che desiderate credere in Gesù, prendete l'esempio che vi deriva da questa scena. Se non vi sollevate in alto, non potete vedere me che sono piccolo. Incapaci di vedere me, che sono come voi, come potrete essere capaci di vedere colui che è in alto, e si trova nelle profondità se non vi sollevate al di sopra delle vostre opere precedenti?» Al di sopra delle vostre azioni che non giovano, dei piaceri inopportuni, della ricchezza corruttibile che resta quaggiù, al di sopra dei beni e dei possedimenti che periscono sulla terra, al di sopra delle vesti che si consumano, della bellezza che invecchia e si sfigura, al di sopra del corpo nel quale tutte queste cose si sintetizzano e che le sostiene tutte, ma poi diventa polvere. Credete, invece, nel Signore nostro Gesù Cristo, che noi predichiamo, affinché la vostra speranza riposi in Lui possiate vivere per sempre, affinché Egli diventi la vostra guida in questa terra di errore, affinché in questo mare in burrasca Egli sia per voi un porto, affinché nella regione della sete sia per voi una fonte di acqua viva, affinché nel luogo della fame sia per voi una cesta piena, affinché sia la quiete delle vostre anime il medico e il datore di vita per i vostri corpi. 38. La moltitudine esclamò: «Apostolo del Dio vivo, guida lungo il sentiero della vita, rivelatore della verità, molte sono le cose che sono state fatte per noi, che siamo alieni dal Dio glorioso da te predicato e fino ad ora non abbiamo osato dichiararci suoi, già che le nostre opere sono lungi da Lui e a Lui odiose. Ma se Egli avrà compassione di noi, ci libererà dalle nostre azioni precedenti e da ogni male da noi compiuto vivendo nell'errore, non richiedendocene conto né più ricordando i nostri anteriori peccati, noi diverremo Suoi servi e eseguiremo la Sua volontà.» Giuda rispose loro: «Egli non ve ne richiederà conto, né ricorderà più i vostri peccati compiuti vivendo nell'errore, egli perdonerà le vostre iniquità, quanto avete compiuto antecedentemente allorché eravate nell'ignoranza.»